buongiorno a voi. Il padre di Carlo Giuliani, ricorderete tutti, G8 di Genova, 20 luglio 2001, rimasto ucciso durante quelle manifestazioni. Senta, intanto Giuliani, lei in un intervento sull'Unità, proprio all'indomani degli scontri, ha detto... quel blindato che è stato dato alle fiamme dei carabinieri con l'aggravante rivoltante sul retro hanno scritto Carlo vive. Vergogna. Perché vergogna? Perché è stato un uso osceno del nome di mio figlio per giustificare una cosa che non c'entra niente con le manifestazioni, con la voglia di cambiare le cose e con dentro, come dire... il ricordo di una gestione dell'ordine pubblico che è l'esatto contrario di quello che bisognerebbe fare. Cioè quello che è successo a Genova. Però lei che ne pensa di quei manifestanti di Roma? Ha visto, insomma, che ne pensa? Per esempio di quel ragazzo, l'hanno evocato in molti, no? Lei sa anche, le immagini hanno una loro forza, l'estintore... sì. Come l'estintore di suo figlio, quel ragazzo che getta questo estintore... c'è un paragone secondo lei? Io quel gesto, ma ci andrei oltre quel gesto, c'è una differenza sostanziale, l'ho già detto più volte, Carlo raccoglie l'estintore come gesto di difesa quando ha visto una pistola puntata da tempo che non è diretta contro di lui perché lui non è nella visuale dello sparatore e quindi ha una cosa completamente diversa, opposta. Bisognerebbe sempre cercare di capire perché si è arrivati a certe situazioni e capire quello che c'è dietro, perché capisco e so bene che le immagini hanno una grandissima forza, ma se ci si ferma a quell'istante micrometrico della immagine e non si approfondisce che cosa è successo prima, perché quella immagine ha un significato, allora non si capisce quasi nulla. Senta, lei ha per esempio fatto questa differenza, a Roma sì. Ha scritto hanno spaccato vetrine, hanno fatto sì, una violenza certo. Gratuita, mentre quello che è successo a Genova fu una resistenza a cariche violente. No, attenzione, io non ho scritto questo, io ho scritto una cosa ben diversa della quale sono sempre più convinto. Intanto chiederei di non chiamare manifestanti quelli che spaccano le vetrine, sono un'altra cosa che non c'entra niente con i manifestanti. Come li definiamo? Teppisti, violenti, spaccatori di vetrine, idioti, perché poi siccome qualcuno sostiene che le vetrine vanno spaccate come si deve spaccare il simbolo di un capitalismo, continua a dire che siccome il giorno dopo aumentano le tariffe assicurative è anche una cretinata, un'idiozia, una cosa che non c'entra niente. E poi insomma è proprio una roba barbarica, ecco, no? Allora, intanto riuscire anche a quantificarli, perché sento delle cialtronate, provengono anche da ambienti ministeriali, lo stesso Maroni l'ha detto, 3.000, ma dove 3.000? Alcune centinaia. Perché non li hanno fermati? Questo è il punto. In più dico anche, c'è in questi individui anche un, se, siccome sono organizzati, perché poi c'era dentro fascisti di Casa Pound, ultras della Lazio e della Roma, cioè cose che col valore politico ideale della manifestazione non c'entrano assolutamente niente, no? Non c'entrano. Cioè, niente. Dice la colpa delle forze dell'ordine di non essere riuscito a prevenire. No, non la colpa. C'è una simmetria nell'interesse a che noi di fatti continuiamo, anche adesso lo sto facendo purtroppo io perché rispondo alle sue domande, a parlare di queste cose invece di parlare di quello per cui è stata indetta quella manifestazione. Questo mi pare che sia una cosa del tutto ovvia. Però insomma quello che lei ha scritto, io ce l'ho davanti su Unità, certo. Dice resistere a una carica violenta è un diritto, è una pratica rispettabile, certo. Carlo certo. Ci ha provato, però lei esatto. Sa che quelle immagini, è vero che non si può focalizzare tutta le immagini, certo. Ma ad esempio il passamontagna. Cioè l'idea ma passamontagna, di... ma tiravano il gas CS, ma lei l'ha mai preso un po' di CS? No, per vedere, ecco, ci provi. E quando vado in una manifestazione, tanto ne lanceranno purtroppo ancora, insomma, no? In qualche modo. È una cosa terrificante. E quella roba lì serviva a difendere in qualche modo, o a cercare di difendere in qualche modo, la capacità respiratoria. Il passamontagna con il gas. Non era portato da casa, gliel'hanno dato lì, ha capito? Sì, certo. Allora, però passamontagna col gas non è che serva a impedire all'interno. Impedisce l'accesso alla bocca, certo. In qualche modo protegge, come no? Non è proprio una mascherina, adesso usano le mascherine, sono ancora più efficaci, certo, ma in qualche modo, e gliel'hanno dato lì, ci sono le testimonianze di quelli che hanno detto: ma sei matto a stare a capo scoperto, mettiti almeno questo. Uno. Due, stiamo attenti però a una cosa: io ho parlato di resistenza citando una sentenza della Corte di Appello di Genova. La differenza a Genova è tra chi spacca le vetrine tra le 11:30 e l'1:30 di venerdì 20 luglio col concorso infiltrati di poliziotti carabinieri e comunque col beneplacito di carabinieri e poliziotti che non intervengono nella maniera più assoluta. Ma vogliamo rileggere un po' la storia di Genova? Senta, attaccano ingiusta il Corte di Appello di Genova ha scritto nella sentenza che un po' di manifestanti che erano accusati di devastazione e saccheggio sono stati assolti o condannati a pene minime cadute in prescrizione perché hanno reagito a cariche indiscriminate, violente e ingiustificate dei carabinieri. Senta, che ne pensa? Ha visto Matrix due giorni fa? C'è stato un parapiglia con il direttore del giornale Sallusti. No, guardi, per carità, hanno fatto bene. Appena colazione, non mi citi delle persone perché ho problemi di stomaco. No, però le cito, insomma, quello che ha detto l'ha detto, insomma. Ma non me ne frega niente di quello che ha detto, per carità. Vabbè, lo dico agli ascoltatori, insomma, se lei non dispiace. Hanno fatto bene a sparare a Carlo Giuliani, ha detto. Ma ha capito, ma lasci perdere. Ripeto, mi vuole proprio obbligare a rivedere quello che ho mangiato 10 minuti fa. Allora, cerchiamo di ragionare invece sulle cose come sono successe e perché. Perché altrimenti, anche dal punto di vista dell'informazione, facciamo delle cose sbagliate perché modifichiamo la realtà. E l'informazione può avere delle grandi responsabilità rispetto a questo. Un'ultima cosa le devo chiedere: che ne pensa di quei genitori? E si sono sentiti tante parole, il fermo tramutato in arresto, eppure il giorno prima dicevano: ma no, non è un black bloc, è un bravo ragazzo, ci dovranno chiedere scusa perché li lasceranno liberi. Il padre di Erpelliccia, cosiddetto, ha detto: le definirei più un playboy che un black bloc. Sì, mi dispiace per i genitori, mi dispiace per lui, non so che tipo è, quali sono le sue condizioni, non voglio entrare in queste vicende. So che per esempio bisognerebbe citare anche il fatto che quando arrestano 10 ragazzi alla sera che sono lì che discutono, c'è una signora dal terzo piano o al quarto che grida ai poliziotti: quelli non hanno fatto niente. Però c'è un giudice. Allora, vogliamo citare quest'altra cosa che è una testimonianza diretta? Sì, questo è vero. C'è un giudice però che poi ha giudicato e li ha ritenuti responsabili. Insomma, almeno ha tramutato fermo in arresto. Alcuni sono stati rilasciati poi subito dopo perché non c'entravano niente. Cioè, anche questa roba qui non le sembra una cosa sbagliata nel comportamento? Sembra quasi, in centesimo, la roba della Diaz, intervengono e rompono la testa a 90 persone che non c'entrano niente, che sono lì che dormono per riparare o cercare gli arresti che hanno fatto, i fermi che hanno fatto li paragonerebbe a quelli della vicenda. In centesimo. Io intanto la ringrazio, signor Giuliani. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi. Giuliano Giuliani, il padre di Carlo. Allora, le 8:38 minuti, siamo qui, cari ascoltatori. L'abbiamo titolata Storie di Casta. Questa parte di trasmissione. Intanto voglio salutare l'onorevole Domenico Zinzi, buongiorno dell'UDC. Sì, buongiorno. È anche presidente della provincia di Caserta. La sua storia, la racconteremo, la storia di altri colleghi, la racconteremo tra un attimo. Saluto anche il professor Carlo Stagnaro, che insegna, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Stagnaro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eccoci. Ieri Carlo Stagnaro, l'abbiamo chiamata Stagnaro perché sul secolo XIX prendendo spunto da notizia che io da 2 o 3 giorni do, dicendo no, non può essere vera, ditemi che non è vera, di non sarà sicuramente vera, è verissima. Praticamente l'ha trovata Italia Oggi 2 giorni fa. Ricordate il contributo di solidarietà per tutti i dipendenti pubblici? Ministeri e sottosegretari non lo dovranno pagare perché non sono considerati, stagnaro, alla stregua di dipendenti pubblici. Loro no. E lei ieri ha fatto un editoriale sul Secolo XIX, durissimo, a dire: ma questi politici, la nostra classe politica si guadagna così dal primo all'ultimo insulto del sentimento antipolitico. Perché? Beh, a me pare, distinguiamo due cose, c'è un aspetto formale e un aspetto sostanziale nelle cose di cui stiamo parlando. Sull'aspetto formale evidentemente non entro, può essere vero che dato che il ministro o il sottosegretario non è tecnicamente un dipendente, per il modo in cui la norma era formulata ha, tra virgolette, diritto a non esserne penalizzato. Però a fianco di questo c'è un elemento sostanziale. L'elemento sostanziale è che il paese sta attraversando un momento evidentemente difficile, nel quale tutti noi, qualunque lavoro facciamo, in qualunque maniera percepiamo i nostri redditi, siamo chiamati a contribuire più di quanto facevamo in precedenza. Non c'è imposta, balzello o tributo che non sia aumentato per qualunque categoria di lavoratore. Ora, in questo contesto è quantomeno singolare che la classe politica abbia fatto in modo di schivare la larga maggioranza di questi aggravi. Questo è l'ultimo esempio, ma abbiamo un'ampia teoria di esempi precedenti. Basta leggere oggi La Stampa: riduzione dei parlamentari, scontro tra i poli e salta l'accordo. E quindi pare che sia saltato anche l'accordo per ridurre i parlamentari, che è una vicenda di cui abbiamo parlato da quanti anni, Stagnaro, anche questa, insomma. Se torna e ritorna. Riduzione dei parlamentari, riduzione delle province, eliminazione delle province, riduzione dei consigli provinciali, eccetera. Come dire, il tema, a me pare che c'è in questo momento uso un termine che da liberale liberista non mi piace utilizzare, ma una sorta di colpa collettiva della nostra classe politica, della quale evidentemente non tutti partecipano in misura uguale, perché non è che ciascuno sia singolarmente responsabile delle peggiori cose che vengono fatte, però le decisioni peggiori vengono sistematicamente prese, e allora uno si interroga che nella stessa maniera in cui tutti, generalizzando in maniera sbagliata, diciamo che i dipendenti pubblici sono fanulloni, nella maniera in cui tutti, generalizzando e sbagliando, diciamo che i giornalisti non sanno fare il loro mestiere, che gli economisti non sanno fare il loro mestiere, non vedo perché, in base alla stessa logica, che è in parte sbagliata ma è del tutto comprensibile e in questo caso credo anche un po' più giustificata che in altri, non si possa dire che la classe politica, come dire, le monetine se le cerca qualche volta. Se le cerca. Allora, Domenico Zinzi invece l'abbiamo chiamata per una vicenda che riguarda lei e altri parlamentari, diversa, ma insomma, storie di casta le piace come titolo, presidente Zinzi? No, siamo troppo demagogici. Sì, come no. Vabbè. Il tempo libero va anche impegnato, no? Dice. Senta, allora, la questione è questa: ci sono alcuni parlamentari della Campania, tra cui lei, che prendono lo stipendio giustamente da parlamentare, ma prendono anche, essendo ex consiglieri regionali, il vitalizio della regione Campania. L'hanno raccontato Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella qualche giorno fa. Per carità, la legge è questa, e dove c'è la legge, c'è la legge. Però quant'è, tra l'altro, il vitalizio da ex consigliere? Sì. Zinzi, ce lo vuol dire? Guardi, intanto mi fa piacere che lei ha fatto già chiarezza nella domanda che mi fa circa l'indennità di carica anche di presidente della provincia, che questo non l'ho mai percepito sin dal primo giorno. Ma ci mancherebbe, fatto, cioè, 3 stipendi sarebbero un po' troppo. È la norma che lo dice, no? E quindi è normale che sia così, quindi no? Perché da notizie di stampa molte volte viene fuori quando si... No, lei come presidente di provincia anche presidente non prende un euro. Eccetera. No, ma lei, è naturale, perché non faccio nulla di straordinario. No, certo, non prende un euro, però prende da onorevole. Sì, per quanto riguarda il vita di poi, questa è una norma che c'è, parte da lontano, l'effetto di questa norma, non lo so, stabiliva che a una certa età o dopo una certa età, per quanto mi riguardo sono ultra 65enne, per cui no, non so se questo può essere un parametro o meno. No, in ogni caso, mi scusi, E credo che il Consiglio regionale debba intervenire su questa materia e fare chiarezza. Ma quant'è la pensione, il vitalizio da ex consigliere regionale? Ce lo vuol dire? Guardi, io per quanto mi riguarda sono 4.000 euro al mese, non dopo 5 anni, dopo 12 anni. Netti o lordi? 4.000 netti. Netti, 4.000 netti. Poi c'è il ricarico, poi si fa il cumulo. Insomma, che lei 4.000 sì. più che lei sì. cumula con la paga da onorevole. Ecco, è questa la stortura che succede solo nella regione Campania. No, se uno fa politica da onorevole, almeno perché dovrebbe prendere anche il vitalizio da ex consigliere regionale? Guarda, io credo che questa può essere sospesa finché si è in carica per l'altra, insomma, si percepisce già un'indennità di carica. Però se io le dico che questa è una difformità rispetto alle altre regioni, altre cose, questo non lo sapevo neanche. Solo nella regione Campania si percepisce. Sì, si è fatto chiarezza su questa cosa, credo che bisogna tagliare corto, ecco, bisogna intervenire e regolamentare, quindi stabilire nuove modalità. Ecco, lei rinuncerebbe a questo vitalizio di 4.000 euro? Lo troverebbe giusto rinunciare? Guardi, non è che rinuncerei, è naturale, insomma, si fa una nuova norma, si stabiliscono delle nuove regole e si va avanti. Insomma, il Consiglio regionale credo che lo stia già facendo, perché leggo che ci sono già iniziative in tal senso. Sì, so che il presidente della regione Caldoro ha detto: cercheremo di ovviare a questa cosa. È una leggina che è stata fatta nel 96. Ma io le dirò che facessero anche presto, sennò qua accumuliamo, troppi soldi. Sì, insomma, prima o poi questa casta credo che debba incominciare a uscirne un poco con più chiarezza. Lo dico in maniera più. Non lo so. Così pare anche a noi. Stagnaro, così pare anche a noi. Attrezziamoci a far sì che questo succeda. Allora, facciamo così: andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire con il presidente della provincia di Caserta, Zinzi, che come presidente della provincia di Caserta, chiariamo, prende 0 euro, non prende un euro, però prende da parlamentare e cumulando con lui anche altri onorevoli che sono stati consiglieri regionali della Campania, cumulano il vitalizio. Alle 8:47 minuti, Carlo Stagnaro, non so se vogliamo mettere insieme Zinzi dice: ma toglietemelo questo vitalizio della regione, effettivamente rischia la casta, se no di poi giustificare quelle monetine a cui lei faceva riferimento, no? Ma io credo che l'onorevole abbia ragione e sarebbe opportuno, necessario, urgente un intervento in questo senso, avendo però presente qual è il problema, perché non dobbiamo neanche, come dire, finire nel moralismo spicciolo. Cioè, il problema non è che il parlamentare o il consigliere regionale o chi altro abbia uno stipendio troppo alto o troppo basso, di questo ne possiamo discutere, ma non mi pare che sia davvero quella la questione. La questione vera è la disparità di trattamento tra lei, me, eccetera, e chiunque altro, e la vicenda dell'onorevole Zinzi, il quale non è evidentemente, tra virgolette, colpevole, c'era una legge e lui ne ha beneficiato, è però paradigmatica. Lui diceva: con 12 anni di contributi, immagino su un reddito attorno ai 10.000 euro al mese, percepisce oggi un vitalizio da 4.000 euro al mese. Ora io vorrei trovare un'altra professione per cui i criteri di attualizzazione della pensione sono così favorevoli, perché se io guadagnassi 10.000 euro al mese per 12 anni non avrei una pensione da 4.000 euro al mese, avrei una pensione evidentemente, giustamente, molto più bassa. E alla fine quello che si chiede è semplicemente che la casta, se vogliamo chiamarla così, il ceto politico, chi ricopre incarichi politici, scriva delle regole per se stesso che non sono diverse dalle regole per tutti gli altri. Tra l'altro Filippo Facci oggi su Libero scrive il suo appunto a dire: uno va in libreria, scrive Facci e legge sanguisughe, avvoltoi, vandali, indignati, mediocri, impuniti, metastasi, la casca, la casta, la cricca, la ciurma. Insomma, effettivamente uno dice: vabbè, sembra che c'è un'accusa demagogica contro la classe politica in generale. In realtà poi scrive Facci alla fine: non è che la gente legge certi libri e allora si incazza. Il problema è che si incazza e allora legge certi libri, cioè certi libri vanno perché la gente. Perché i politici si difendono sempre così, Zinzi, a dire: ma no, è demagogia pura. Ma in realtà i giornalisti raccontano delle cose e la gente si arrabbia per questo. Perché, onorevole Zinzi, ha ragione la gente ad arrabbiarsi, a dire c'è questa casta di intoccabili che siete voi oppure no? Guardi, la gente ha ragione, dipende da come presentiamo gli argomenti o il dibattito su certe cose. Io vorrei tornare per un attimo sempre sul vitalizio. Vorrei, e questo lo chiederò anche a chi deve legiferare, che se dobbiamo discutere il vitalizio, che si facesse a meno di fare trattenute, no? Per costruire poi il vitalizio. Aboliamolo e basta, insomma, ecco, quindi, perché nel momento in cui si fa la trattenuta mensile, e allora si costruisce anche la prospettiva di dover dare un giorno questo. Sì, però vitalizio. Capisce che c'è, come dice Carlo Stagnaro, una sproporzione. Cinque anni di contributi a 10.000 euro al mese le danno un vitalizio. Io l'ho detto prima che sono d'accordo su tutto, non vorrei passare per chi su argomento insomma faccia della falsa retorica, per carità, insomma. Però io dico, aboliamo la trattenuta, così come succede anche per i parlamentari, no? Cioè datemi lo stipendio pieno e basta vitalizio. Fanno un prelievo mensile molto consistente, credo che alla fine dipende dall'entità del prelievo che si fa mensilmente. Insomma. Ecco, sì, su questo però Stagnaro funziona così come una pensione, cioè uno accantona mensilmente, trattengono dal parlamentare e poi gli danno un vitalizio, ma credo che ci sia una sproporzione evidente tra quanto... No, voglio dire, abolitelo anche a me il contributo previdenziale allora, e io non direi di no, cioè il problema è se tutti i cristiani che abitano in questo paese devono pagare un contributo previdenziale che viene accantonato e che che genera un certo tipo di trattamento pensionistico, il reddito del parlamentare non è qualitativamente diverso dal mio, dal suo o da quello di chi ci ascolta, e non vedo perché deve essere trattato ai fini fiscali, contributivi e a fine vita lavorativa, ai fini previdenziali, in maniera diversa dal nostro. Cioè a me sembra che, come dire, l'aberrazione, la cosa che ci consente di parlare di casta, sia il fatto che il parlamentare gode di norme diverse rispetto a quelle di tutti gli altri. Sentiamo. Ci sono 1.000 persone, in realtà di più, che hanno un trattamento previdenziale diverso dagli altri 24 milioni di lavoratori che ci sono in Italia, e questo non ha senso. E questo fa un po' arrabbiare. Sentiamo Davide da Torino, ci ha chiamato l'800 24 00 24. Davide. Sì, buongiorno. Ma a me sembra che questi discorsi ormai si fanno da tantissimo tempo, alla fine non si fa niente. L'unico movimento che ha fatto qualcosa subito, appena ha messo piede in qualsiasi consiglio, che sia comunale o regionale, è il Movimento 5 Stelle. E non se ne parla mai di questa cosa. Non è vero, mai. Le abbiamo ospitate anche noi. Pochissimo spazio, Milan. Quello che hanno fatto è, non vorrei dire una parola esagerata, ma è epocale rispetto a qualsiasi situazione si possa presentare in qualsiasi altro consiglio regionale o comunale in Italia. Metà vitalizio, appena sono entrati hanno voluto ridurre del metà il vitalizio regionale, si sono ridotti del 70% lo stipendio, sappiamo che cercano sempre di fare proposte per togliere privilegi a casa, ma sono sempre da destra, sinistra, centro, qualsiasi sia lo schieramento politico, vengono sempre segati. Poi si millantano, perché ho sentito l'altro giorno sempre dalla sua trasmissione, un 10% che, se sono ricordi in che regione, si sono ridotti lo stipendio, che è una cosa ridicola. La regione Lombardia, credo ieri Davide Boni ci diceva questa cosa. Esattamente. Beh, ridicola, cioè è vera, è ridicola nelle dimensioni, però è vera, la notizia è vera. Perché... Adesso signor Zinzi mi viene a dire togliamolo, ma può benissimo non prenderlo, fa come fa il Movimento 5 Stelle, che non può rinunciare allo stipendio, lo prende, lo mette in un fondo e fa come ha fatto ad esempio iniziative. Cosa dovrebbe fare? Glielo dica, che la sta ascoltando, cosa dovrebbe fare di questi 4.000 euro, Zinzi? Ma ad esempio il Movimento 5 Stelle ha fatto delle iniziative dove, la prima cosa che mi viene in mente, ha regalato i pannolini ecologici alle famiglie che avevano bisogno, la prima cosa, hanno finanziato i negozi a chilometri zero. Ma ce ne sono 1.000 di... Vediamo, Zinzi, perché lei questi 4.000 euro, visto che dice toglietemeli pure, non li utilizza per... Li utilizza per cosa, se li tiene? Ah, beh certo, potremmo lasciarli e indirizzarli a iniziative solidaristiche. Ma lei lo faccia? Non necessariamente a 5 Stelle. No, ho capito, personalmente, lei lo fa o no? Oppure? Ma è un'idea, lo potrei fare, lo faccio, se non lo posso fare, insomma, non è che... Capito, se lo vuole fare lo faccia, non è che poi noi possiamo venire a controllarla il conto in banca, capire? Scelgo io a chi farlo e con chi farlo. Questo non c'è dubbio. Va bene. Su questo non c'è dubbio. Guardi, sai perché la gente, molte volte parliamo di antipolitica, la gente si incazza? Perché vede la distanza tra la politica o chi fa politica e la gente, insomma. Loro, poiché anche chi fa politica non hanno tutti gli stessi comportamenti, io credo che noi dovremmo tornare a considerare i comportamenti dei politici, e per quanto mi riguarda, chi mi conosce sa bene come sono abituato a comportarmi, e quindi credo contro una certa politica che si muove in maniera corretta, credo che la gente non si incazzi. Vabbè, questo è un discorso che può essere portato. Questo poi lo decidono gli elettori quando la votano. Esatto. Intanto la ringrazio, l'onorevole Domenico Zinzi dell'UDC, anche presidente della provincia di Caserta, così come ringrazio Carlo Stagnaro, direttore di ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Ci fermiamo, cari ascoltatori, sulla pagina Facebook 24 Mattino. Siamo lì per le vostre considerazioni. Vi scambiate idee e pareri, questo ci piace molto. Allora, grazie a Elisabetta Fusconi in redazione, grazie anche a Viola Bottoni, che è stata con noi anche questa settimana e le prossime, e Carmelo Lauricella, grazie, che però se ne andrà. Insomma, ci ritorna l'alpino Peter Biscapè in regia. Grazie, Carmelo. Ci sentiamo lunedì alle 7:20.